Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Estate con Radio Città Fujiko, estate con il Last Minute che ogni mercoledì da un po' di tempo a questa parte presenta le serate a Comini Express, via Fioravanti 68, la curatela dei ragazzi di Binario 69. Il progetto è una console aperta e appunto per questo che è un valore aggiunto la biodiversità musicale e che ho portato ogni volta in motivo di approfondimento un protagonista di queste serate. Con noi Alessandro Pedevani, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora oltre a questo questa bella cadenza che ci accomuna in bolognese, anche una grande passione che ci accomuna per la musica. Assolutamente. Mattinieri, questo è qualcosa che nonostante la nostra realtà da DJ porta poche ore di sonno, ma che sono inversamente proporzionali alla bellezza della musica. Quando si ascolta dischi non si va mai a letto. Esattamente, questo anche se dobbiamo ammettere che l'orario intuito da Comini Express per l'Open Desk dalle 18 alle 21 ci permette anche, se vogliamo, perfettamente d'accordo, sì, di fare un minimo a quel punto di passare la serata sempre nel famoso parco che è stupendo con la loro organizzazione, veramente è unico, è incredibile, una cosa così a Bologna secondo me è veramente unica. E poi soprattutto ovviamente di trovare altri appassionati, estimatori, critiche, proposte, insomma... Un bel bacino di fermento, sì, molto fecondo e fertile, molto tra fecondo. L'altro, e la condivisione tra i nostri dischi è diventata anche un'amichevole competizione. Assolutamente, anche se alla fine qualcosa ci sparirà, mi sa, dalle nostre... Assolutamente, la famosa frase magica: dov'è quel disco che ti devo rubare? Hai portato quel disco che ti devo rubare? Ormai fa parte del nostro DNA, ognuno di noi ha un disco che può interessare a qualcun altro. Allora, Alessandro, che da tempo non è più uno juniores, ma probabilmente è come il buon vino, anzi di questo ne sono certo, ma... passione per un funky, una disco, intersezioni con il jazz, la ricerca nel rare groove. Com'è nato tutto ciò, Alessandro? Allora, è nato veramente, nonostante la classica frase tipo di tutti o di tanti DJ che in un qualche modo hanno iniziato prima della mia epoca, quasi per caso, praticamente. Io inizialmente ascoltavo le cassette di mio fratello che lavorava in radio e andavo praticamente letteralmente alla bolognese, riciuffavo la cassetta e facevo i miei montaggi, cioè, prelevando pezzi da una cassetta all'altra e quasi là. Un giorno arriva in fratello, mi vedo tutto impegnato, tutto là, mezzo trasudato fra i miei primi mixer, i miei esperimenti e cose altre, mi guarda e fa: ma scusa, se così ti piace, ma prendilo. Oi. A quel momento lì è successo. Non doveva dirlo. Esatto, è successo tutto di più. Dirlo. E da lì in avanti, chiaramente. Da lì in avanti è così. Poi ho avuto la fortuna, con la mia età, di frequentare posti che erano prettamente discutibili sotto certo tipo di comportamenti, ma in realtà a livello culturale e musicale in una stessa notte erano veramente incredibili. Quindi posti dove in uno stesso programma musicale, in base alla selezione dei DJ, potevi ascoltare roba degli anni 60, degli anni 70, roba degli anni 80, con contaminazioni, fusion, chi più ne ha più ne metta. E questo ha aumentato la possibilità di playlist. Una cosa incredibilmente, nonostante che allora non esisteva internet, quindi era durissima imparare che cosa avevano proposto in quel momento i DJ. Forse era anche un bene, perché aumentava la ricerca. Ovviamente. E in quella ricerca nascevano 10. Sì, ovviamente, diciamo, tutto faceva brodo, quindi ascoltare in radio un pezzo che avevi ascoltato nella discoteca i giorni prima era veramente grassa, perché finalmente avevi capito come si chiamava quel famoso titolo. Andare a cantarli, mi ricordo sempre, nei negozi di dischi era veramente un'impresa. Cantalo. È quella che fa così. Ero l'impresa di quelli là. Per fortuna che bene o male i commessi si adattavano a queste nostre, alcuni capivano e cercavano di darti la mano, capacità, certo. Con l'occasione finalmente che ho la possibilità di ringraziarla pubblicamente Un grandissimo saluto e un abbraccio alla commessa di Nannucci. Sì, bravissima lei. La Manuela. Manuela, sì, Manuela. Bravissima. Persona fantastica, veramente. Ma abbiamo avuto a Bologna, per quanto riguarda la diffusione musicale da negozio, figure che hanno portato una crescita culturale e una proposta musicale veramente importante, senza andare a ricercare su Shazam, su YouTube, ma no, o su tante altre, la cosa Spotify, divertente, no. La cosa divertente da Nannucci, che alla fine lei, avendo visto che io insomma a quel punto di musica cercavo, perché allora c'erano i primi esperimenti di jazz rock, e quindi un pomeriggio là dentro nel reparto jazz, me lo ricordo ancora, lassù un pomeriggio là dentro, e alla fine è nata quasi una piccola collaborazione, cioè lei non conosceva un certo tipo di artisti, io li avevo a casa, andavo là con la sportina dei dischi e glieli facevo ascoltare. Certo, certo. E la settimana dopo mi diceva: ma sai Alessandro, ho trovato questo di qua di là, ma, ah sai che questo qua che mi interessava, alla fine ho trovato il catalogo dove... Io ero rimasto allibito, non avrei mai creduto, infatti è andata avanti per tanto tempo, quindi un piccolo vanto, chiamiamolo così, se una certa selezione in quel reparto lì è... Hai portato il tuo contributo. È stata, certo, anche grazie al mio piccolo contributo. Infatti album di Mano di Bango che lei non conosceva, e ovviamente io li avevo a casa già trovati, peripezie incredibili, i famosi miei viaggi, e fateli ascoltare, sono piaciuti, alla fine mi diceva che anche lei, la gente, il pubblico di allora le aveva, sì, cioè, poi fortuna insomma di avere una certa età e di aver visto certi concerti che allora erano veramente l'apoteosi, delle chicche. Cioè, io ho visto Mano di Bango alla famosa piscina del Trungrato, cioè a 10 metri, a 10 metri dall'artista, per dire, al famoso Tutto Qua, me lo ricordo. Non è più uno juniores, come ho detto, ma aggiungo anche, ne parleremo nella seconda parte del format, è un grande appassionato per una precisione tecnica analogica, per la registrazione. È stato il mio secondo vizio, praticamente. È stato esattamente in parallelo, sì, si può dire, il mio secondo cosa, vizio, dove diciamo. Io sono molto più carente. Quindi, allora, curiosità è questa, ascoltiamo un po' di musica. Ho da un disco di Alessandro proposto uno degli ultimi DJ set, ho detto ma questo è il basso e il beat di Get Yourself Together degli Young Disciples che stiamo ascoltando e che vi sto proponendo e tenendo come base durante la nostra conversazione. Allora, io ora lo lascio andare per un po' e poi entrerò con il vinile di Eddie Rush che non conoscevo, tra l'altro, quindi un'innocente rabbia, ho avuto una positiva invidia per tutto ciò. Comunque sentiamo quello che l'acid jazz ha colto da sonorità veramente magiche. We'll be right back. linea di basso batteria è pressoché identica e anche la parte che arriva con la melodia di un flauto traverso che è di chiara ispirazione alla musica che abbiamo appena ascoltato in originale, rigorosamente su vinile. E tornando a motivo di conversazione per quanto riguarda la tecnica e l'approfondimento, se vogliamo, nella musica abbinata anche al come si ascolta musica. Anche questa è un'altra realtà che ti appartiene, perché vedo che arrivi con anticipi, addirittura batti me con l'anticipo e ce ne vuole, e hai una modalità di costruzione molto minuziosa della console per mettere a proprio agio i diversi DJ. Stasera saremo in 5 o 6, per cui veramente è una serata che consiglio calorosamente al Comini Express con questa open console. E tecnicamente è questa mania da smanettone, si può dire, Alessandro? Sì, sì, perché alla fine siamo tutti nati con l'intento di smanettare, poi chi più o meno un attimo ha personalizzato la propria tecnica. Certo. Rispetto agli altri, insomma. E non solo, anche per quanto riguarda le luci, per quanto riguarda la possibilità di collegamenti e per ampliare una console che sta diventando sempre più intensa. Infatti anche stasera avremo delle novità, perché visto una richiesta, delle sorprese, visto una richiesta di Manuel, a quel punto che la considero, che salutiamo assolutamente, e la considero una richiesta molto molto ponderata, stasera. Così daremo una mano non solo a lui, ma anche a tutti gli altri ragazzi, in qualche modo. Che aspettiamo dalle 18 alle 21. Dai, 21:30! Noi speriamo sempre di rubare qualche minutino. Comunque, ciò non toglie che io personalmente poi apprezzo, perché c'è bisogno anche di prendersi atto che alle 4:30 suona la sveglia, per cui comunque detto ciò io mi congedo a te ringraziandoti per questa conversazione. Grazie per lo spazio. Con un altro disco che hai portato di Wilton Felder, e i più appassionati avranno riconosciuto Lalo Schifrin con la colonna sonora di Bullet. Bellissima versione. Altro veramente. Disco che potrebbe finire tra i miei, scherzo, da pelle d'oca. Io quando un disco nelle prime battute già ti stimola la pelle d'oca, quelli sono i miei dischi. Un rare group meraviglioso. Vi aspettiamo questa sera dalle 18 alle 21:30, possibilità di aperitivo, possibilità di mangiare qualcosa, non manca la buona musica, tante chiacchiere. Nessun limite. Grazie Alessandro, grazie a stasera. Grazie a voi.